Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. This is Carmen Strong. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Buonasera, noi le pazzie invece le facciamo per voi, per portarvi ogni settimana un pezzetto di mondo dentro le vostre belle casette. Bentornati a Now Boarding da Francesco e da, non aspettatevi Riccardo, bensì... David. Ciao David. Ciao a tutti. Benvenuto, come stai? Bene, grazie, davvero onorato. Bentornato, anzi. Oggi Riccardo si è dato malato... o comunque non si è fatto trovare sicuramente. E quindi questo tempo ha fatto bene. Bene, dai, ti tocca una puntata standard oggi, David, non la tua abituale focus on, però potrebbe, insomma, essere interessante. Sì, dai, anche perché oggi ci allontaniamo un po' dalle mete, le ultime mete, rispetto alle ultime mete. Come al solito, prima canzone, poi spieghiamo meglio dove siamo, cosa dici? Benissimo, e allora cominciamo, lanciamo la prima traccia di David Bowie, China Girl. I'll give you eyes of blue. I'll give your man a wife. Davide, siamo stati troppo buoni questa volta, si indovinava. China Girl, dove saremo mai? Oggi facciamo davvero un lunghissimo viaggio. Eh sì. Approdiamo nella vastissima Cina, precisamente a Shanghai, dove incontriamo Luciana. Ciao Luciana. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Come grazie, mi sento importantissima. Lo sei, lo sei. Come stai? Bene, bene. Mi fa piacere. Luciana, la mettiamo subito sotto il terzo grado. La mettiamo subito alla prova. Ti spieghiamo cos'è, Luciana. Sono una decina di domande a cui tu sei obbligata a rispondere e a cui non ti puoi sottrarre. Sei pronta? Non è un problema, posso rispondere a tutto. Wow, è pronta, è pronta. Alla vai, grande. Davide. Cominciamo. Età? 29 anni. Di dove sei? Spongano, in provincia di Lecce. Prima ci ha detto cercatelo su Google, quindi invitiamo anche gli ascoltatori a farlo. Cercatelo su Google e visitatelo, l'estate è bellissimo. Adesso sei a Shanghai, precisamente dove sei? Precisamente in centro a Shanghai, a casa mia e a letto. Cosa fai in Cina? Lavoro per una società italiana di F&B, Food and Beverage, si chiama Irest. Se qualcuno che lavora in azienda sta ascoltando, saluto a tutti. Da quanto vivi lì? Vivo in Cina dal 2005. Dal 2005, sono due conti, 6 anni? Sono 6 anni, e poco tanti. Più. Un bel pezzetto. Perché ti sei trasferita? Mi sono trasferita in Cina perché ho studiato il cinese. Quindi sono stata prima a Pechino per studiare la lingua e poi mi sono trasferita a Shanghai per lavoro. Ecco, mi ha bruciato la domanda. La domanda successiva era perché hai scelto Shanghai piuttosto che Pechino. Quindi tu sei andata, dai, due domande in uno, va bene. No, lo te la faccio, te la faccio a rovescio, quindi perché hai scelto prima Pechino per andare a imparare la lingua e poi Shanghai? Ho scelto Pechino per imparare la lingua perché Pechino è il posto dove la lingua è più vicina alla lingua ufficiale, diciamo, perché in Cina si parlano molti dialetti e solo il dialetto di Pechino diciamo si assomiglia alla lingua ufficiale, mentre nel resto della Cina non sanno parlare il mandarino correttamente, quindi chiunque studia il cinese passa da Pechino. Ho capito. E poi nel momento in cui sei andata a Shanghai hai avuto dei problemi, hai notato grosse differenze dal punto di vista linguistico? Sì, vabbè, hanno un accento diverso, tanto per cominciare, ma non è un problema, ci si abitua. Comunque a Shanghai parlano correntemente lo shanghainese, che è un dialetto e non è il mandarino. Ho capito. E quando sei partita invece pensavi di fermarti lì così a lungo? No, per nulla, io sono partita per stare qui 6 mesi. E poi invece ti sei fermata, insomma. E poi il cinese in 6 mesi non si impara. Immagino. Quindi mi sono ritrovata a studiare cinese full time per 2 anni. E poi ho trovato lavoro qui, allora mi sono fermata per lavoro e un anno tira l'altro, sono diventati 6. E ogni anno, dico l'anno prossimo, torno a casa. E quindi continui a rimandare. E a casa invece ci torni spesso? E al massimo 2 volte l'anno. L'estate è un must, chiaramente, perché grazie a Dio in Salento se non si va l'estate è meglio non andarci proprio. E poi il Natale a volte, però negli ultimi 2 anni sono sempre venuti miei a trovarmi, quindi ne ho fatto a meno, ecco. Ho capito, il Salento ti attira l'estate, cioè, c'è poco da fare. Sì, l'estate è immancabile. Hai detto che ogni anno pensi che sia l'ultimo lì, quindi immagino lo stia pensando anche adesso. Programmi futuri, altre mete in programma? No, purtroppo no, perché comunque per motivi di lavoro eccetera eccetera penso di rimanere qui l'anno prossimo e poi chi lo sa. Questa risposta l'ha data perché giustamente se qualche collega l'ascolta poi non è che può dire guardate che io me ne vado da... questa l'ha pensata bene. Non scherzate, se qualcuno sta ascoltando, grazie di esistere, Irest. Ascolta, l'ultima domanda, che è quella che è più interessante per noi. Qui nessuno ha mai visto un funerale cinese, almeno lì muoiono? Allora, fortunatamente sì. Non hanno funerali, perché? Perché in Cina i corpi dei defunti vengono cremati, non vengono sepolti, comunque il popolo cinese muore. Prevalentemente muore. Non si accorge. No, il popolo cinese è prevalentemente buddista e i funerali buddisti non consistono, insomma, in nulla di simile a quello che è un funerale cristiano, ma consiste nel bruciare non so che cosa per terra vicino a casa del defunto e pregare secondo un rito buddista. Sono degli incensi, credo, non lo so, bruciano degli incensi e pregano in maniera che non so descrivere a parole, quindi anche questo cercatelo su Google. Abbiamo sfatato uno dei principali luoghi comuni sugli immigrati in Italia. Finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo scoperto che fine facciano. Introduciamo così la seconda traccia. Vai. Di Katie Melua, 9 Million Bicycle. Bentornati su Nowboarding sui 200.200. Siamo qui con Luciana, vogliamo introdurre l'argomento della puntata. Ti chiediamo quindi cosa significa lavorare a Shanghai, lavorare con queste persone, che sono veramente tante. Ah, questa è una domanda troppo vasta. Beh sì, sicuramente sono tantissimi. Lavorare con loro significa lavorare il doppio, cioè per se stessi e per loro, perché comunque essendo veramente aridi e poco flessibili mentalmente non sono capaci di andare molto, molto a fondo delle faccende. Ho capito, ma la prima sensazione che hai avuto quando sei arrivata a Shanghai è quella, non so, cerco di sperimentare, rimango qui o torno subito a casa? Ma il torno subito a casa è sempre relativo, perché poi non è che casa sia il paradiso, chiaramente. Però la città mi piaceva e mi piace ancora, sono le persone che io trovo odiose. Addirittura odiose. Sì. Quindi proprio una questione, dici, di mentalità che li rende poco flessibili, cioè nel... Ma è il sistema di istruzione che loro hanno, comunque hanno un sistema di apprendimento molto mnemonico fin da piccoli, per cui non, sì, si ritrovano a non essere molto flessibili e a ragionare un po' per compartimenti stagni, quindi quando uno gli dice di fare una cosa bisogna spiegargliela esattamente dalla A alla Z come farla, perché altrimenti non ci arrivano da soli e non hanno capacità di risolvere problemi. Hanno capacità o di crearli i problemi o di rilevarli, ah, al, okay, massimo. Il problem però solving di proprio non esiste. Di risolverli sono totalmente incapaci. E questo, cioè, è l'opposto un po' forse della mentalità italiana, cioè dimmi un po', poi qualcosa io mi invento e risolvo, no? Sì, no, gli italiani sicuramente sono molto, molto più elastici, sanno sempre arrangiarsi. E invece questi qua veramente un disastro, sono proprio... Ma poi sono degli scansafatiche unici. No, scusa un attimo, la Cina cresce del 9, 10, 12%, non so, e sono scansafatiche? E tutti gli stranieri che vivono qua si chiedono come fanno. Cioè, ma in... noti proprio una scansafatica? Loro, sì... Sono produttivi non perché lavorano tanto, perché sono tanti. Ah, quindi è proprio un fattore di... Allora, soffermiamoci sulle cose più belle, no? Lavori con tanti stranieri. Che meglio lascia stare, sì. Ripeto, in ufficio sono l'unica straniera e tutti gli altri sono cinesi. Proprio da sola. Però chiaramente di stranieri che vivono e lavorano qui ce ne sono a migliaia, ma ecco. Quanto ti tocca lavorare, ecco, al posto loro? Quanto mi tocca lavorare? Le ore lavorative giornaliere. No, non voglio quantificare da adesso. Prima molte di più, adesso siamo un po' più organizzati, quindi 9, non più di 10 comunque. Quindi in un certo modo possiamo dire, forse anche come consiglio per chi intende trasferirsi in Cina, che diciamo un cambiamento nell'approccio è necessario sull'approccio lavorativo. Il mio consiglio per chi pensa di trasferirsi in Cina è: non lo fare. Non ci venite qui, andate da un'altra parte e rimanete nei paesi civilizzati. In qualche modo probabilmente la differenza culturale si nota, no? Quindi. Ma forse solo quella, tutte le culture sono diverse, noi italiani siamo diversi anche dai francesi e dagli spagnoli. Infatti, no, molte volte sì, si dice, ma quella... Parlare di diversità culturale è un eufemismo. No, è vero, cioè, alla fine le differenze culturali comunque non si possono negare, cioè ci sono e esistono, si possono solamente adattare, esatto, o confrontare in qualche modo. E insomma dice che è solo una questione, o comunque in grossa parte quantitativa, già sono tanti, producono tanto. E certo, sono 1,5 miliardi di persone, è chiaro che producono tanto. Poi comunque c'è anche il fattore disonestà che gioca un grande ruolo, perché sono veramente più disonesti dei napoletani. Sì? Urca. E anche nel momento in cui tu sei entrata in un ambiente, tra virgolette, loro, hai avuto, non so, maggiori difficoltà proprio per questo? Ma posto che raramente un occidentale entra nei loro ambienti, perché comunque... Se loro sono chiusi in Italia, figuriamoci quanto sono chiusi in Cina. Loro. Comunque, se non riescono ad integrarsi in altri ambienti dove sono in minoranza, quando sono in maggioranza capirai che è anche peggio. Gli unici che si sono più o meno integrati sono quelli che magari si sono fatti una famiglia qua, si sono sposati con una persona del posto, ma per tutti gli altri non è facile. No, io non ho mai avuto amici cinesi e poche persone ce li hanno avuti. Ah, quindi proprio una separazione netta, insomma, una difficoltà. Sì, perché c'è troppa diversità nel modo di pensare, nel modo di esprimersi, in quello che si mangia, anche, non lo so, senso dell'umorismo. non è facile instaurare un rapporto se non c'è feeling tra due persone, certo, no? Certo. Se io ti faccio una battuta e tu non ridi, la prossima volta non te la faccio più. Ma non ti chiamo neanche la prossima volta. E nella l'ultima domanda, un po' in questo ambito, sono ben accetti i lavoratori stranieri, italiani? Cioè, nel senso, loro si rendono conto che queste persone che arrivano da fuori possono dargli degli apporti, possono... Ma allora, fino a qualche anno fa i lavoratori stranieri non solo erano ben accetti, ma erano chiamati, erano strapagati e gli si faceva anche un po' di vento. E adesso molto meno, perché comunque loro hanno avuto la loro bella crescita, hanno succhiato dall'Occidente tutto quello che potevano succhiare, per cui adesso sempre meno, sono molto più rigorosi nel rilasciare visti. Insomma, stanno cercando un po' di tagliare, perché fondamentalmente gli serviamo sempre meno adesso. Ah, quindi non solo un discorso proprio di approccio, proprio a livello, un'azione deliberata, no? Se mi parli di visti, se mi parli di... Sì, se uno non è abbastanza qualificato, non ha una certa esperienza, insomma, se uno non ha niente da dare a questo paese, non lo vogliono. Ah, ho capito. Questa cosa non me l'aspettavo, no, no Davide? No, ma neanche io, perché comunque fino a 2 anni fa davano visti per strada, li vendevano. Quindi adesso, dopo le Olimpiadi del 2008, hanno dato un grande giro di vite, e dopodiché hanno anche mandato via un po' di persone. Ho capito. Chi non aveva un lavoro, chi non aveva un curriculum di un certo tipo, li hanno mandati tutti a casa. Ho capito. Bene, dai. Cioè, no, in realtà non c'è niente. Non c'è niente di bene proprio per niente. Però, vabbè. Giusto... No, quello che volevo dire io, appunto, se qualcuno è neolaureato e vuole venire qui a cercare lavoro e a rimanere, insomma, in pianta stabile, di informarsi bene, perché non è così facile. Nel senso, bisogna prima trovare lavoro, possibilmente, e vedere se l'azienda è in grado di fargli un visto, un permesso di soggiorno, altrimenti qui non si può stare. E sappiate che amici non ve ne fate, esatto. Quindi... Beh, sì, amici si fanno amici, ma magari stranieri è meglio. Mm-hmm. Come funziona con i visti? Ci sono vari tipi di visto, chiaramente. Ci sono i visti studio, per cui bisogna essere iscritti a un corso di lingua, a un corso universitario, comunque un'istituzione che sia riconosciuta, mm-hmm, per cui si possa ottenere un visto di studio. Poi ci sono i visti business, per affari, però quelli non consentono di permanere sul luogo per un tempo indeterminato. Sono dei visti di un mese, per cui si può entrare e stare qualche giorno e poi bisogna riuscire un'altra volta. E poi c'è il permesso di soggiorno per lavoro, mm-hmm, per cui bisogna avere un contratto di lavoro e l'azienda deve fare tutte le pratiche, quindi il supporto, certo, permesso di lavoro deve essere approvato dal governo cinese, e poi in base al permesso di lavoro si può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro. Ho capito, ecco, ci abbiamo chiarito anche questo aspetto. Giusto per farci un po' l'orecchio, io inizio ad allenarmi con il cinese. Adesso ci ascoltiamo una canzone scelta da te, oddio. Sì. Yue Liang Zhishang. Questa l'ho pronunciata bene, sì o no? Sì, è giusto, è giusto. Aron Tamne Sarin Nutish Morin Hori Moyangaton Dan Sakhtorji Hart Hong Rombi Bottom Bottom Spilden Sanla Enkuchbi Sarne Utish Sundoran Echlulet Dola. So 想象，让有意的身体开始思想，马头琴悠扬，马来琴穿场，我的爱情奔跑在呼伦贝尔草原上，你的善良我不能抵抗，你的纯洁将我的心紧紧捆绑，哦，你的笑容让我找到了最后信仰，美丽的月亮你让霓虹暗淡无光， 我等待，我想象，我的灵魂早已脱缰，马里神奇，马里神落，oh yeah, oh yeah。 Nella pausa Luciana ci diceva sono in genere tutte d'amore le canzoni cinesi, quindi abbiamo scoperto anche questo lato romanticone dei cinesi. Luciana... Sì, ma non per niente, vorrei precisare, parlano di questo nelle canzoni perché non è che possono parlare d'altro. Non sono solo macchie, sì, sì, più o meno sensibilità. Sole, cuore, amore funziona anche in Cina e... da sempre. No, c'è stato qualche artista che si è permesso di parlare di politica nelle canzoni, è stato fucilato pubblicamente, quindi. Infatti, ora sta sottoterra probabilmente. Visto che hai accennato alla cosa, com'è con la censura? Cioè proprio nella vita quotidiana, intendo. Apri un social nella network. Nella vita quotidiana, accendendo la TV, quello che si apprende è che la Cina è grande, la Cina è forte e la vita è bellissima. Non succede quasi niente di brutto nel mondo. Facebook è censurato, YouTube è censurato, Amnesty International esce un teschio quando provo ad aprire la pagina. Stai scherzando? No, non sto scherzando. Qualche anno fa usciva un teschio quando cercavi di aprire Amnesty International. Adesso ti esce una scritta: niente. Non esiste Amnesty International, e senti suonare il campanello tuo di casa. Ecco. Ti vengono a prendere, no. Probabilmente. Non esistono i diritti umani, scordateveli. Quindi, ma in che senso Facebook, YouTube bloccati? Cioè, sono oscurati, non si può accedere. Ah, no, quindi non è accedere. Che alcune parti o alcune pagine, alcuni contenuti, proprio il sito è totalmente inaccessibile? Sì, allora, vabbè, voi non sapete niente, ma i server di Google sono stati oscurati l'anno scorso, 2 anni fa, quando erano in Cina, in mainland China, diciamo. Mm-hmm. E dopodiché c'è stata una grandissima causa tra Google e il governo cinese, e Google, che non si arrende, ha spostato i suoi server a Hong Kong, che comunque è sempre Cina, ma è un'autorità politica indipendente, quindi con più libertà. Per accedere a Google da qui si clicca google.com.hk, che sta per Hong Kong, quindi i server di Google sono a Hong Kong, per cui è un po' più libero, però è lentissimo. Quindi comunque le informazioni sono filtrate, per cui se tu fai la stessa ricerca su Google Cina e su Google Italia i risultati sono diversi. Per esempio, se tu clicchi piazza Tiananmen su Google Cina, escono le foto della piazza, del quadro di Mao e via dicendo. Se tu cerchi piazza Tiananmen su Google Italia, escono fuori i carri armati, certo, con la famosa foto, la differenza, e sì. sappiamo tutti di che si parla, no? Quindi gli stranieri in generale usano un VPN a pagamento per accedere ai siti oscurati. Ok, però scusa proprio anche la domanda forse stupida, se tu vuoi utilizzare Google Italia, no, ti è bloccato anche quello? Cioè google.it o .com UK o cose del genere, ti sono bloccati anche quelli? No, beh, si possono aprire, però io comunque uso un VPN, per chi non sa cos'è un VPN. Come me, Davide, ad esempio. Tanto Google prega per noi, anche questa si può trovare su Google. VPN è una, si chiama Virtual Private Network, per cui risulta che tu ti stai connettendo da un IP fasullo. Ah, ok. Quindi è un IP falso, quindi quando io mi connetto a internet risulta che sono nel Massachusetts piuttosto che a Londra, e allora la censura cinese non può filtrare le informazioni perché io non sono a Shanghai. Ho capito. E questo non ti rallenta proprio nell'attività lavorativa quotidiana? No, la velocizza, perché io uso Gmail per leggere la posta e Gmail qui è morto, e invece col VPN posso accedere velocemente. Sì, comunque no. non risulta che io sono qui. Ok, no, intendevo proprio l'operazione di censura e di restrizione, se questo rallenta, però mi ha risposto lo stesso dicendo che se uno fa in maniera alternativa velocizza la sua attività. Ma sì, no, no, non c'è altro modo, altrimenti le pagine vanno molto a rilento, perché tutto, cioè, c'è uno screening su tutto quando uno si connette a internet qui. Ho capito. Davide, non so se hai sentito, ma veramente ha suonato il campanello della radio, quindi io cambierei anche discorso. Non so se le lunghe mani della censura cinese arrivino fin qui. Non mi sbagliavo. Ma guarda, andiamo con la prossima traccia, prossima, e siamo tutti traccia, tranquilli. Ok. E allora mi faccio aiutare da te, Luzzana. Allora, Si Lu, della cantante. Ci aiuti con la pronuncia? Lian Jin Ru. Chiarissima. Andiamo ad ascoltarla. Rientriamo in onda con Now Board In. Luciana, tu ci sei ancora? Sì? Sì, ci sono. Eccoci. Siamo verso la fine della puntata. Ti chiediamo un po' di Shanghai, insomma, della città. A noi è sembrata un po' più europea, forse, no? Occidentale, diciamo, magari di altre città cinesi. Impressione nostra o è così? Sì, Shanghai è una città molto europea. Parliamo del centro della città soltanto, però la zona del centro si chiama infatti concessione francese, in quanto proprio costruita dai francesi all'inizio del Novecento, per cui sì, ha un'area molto, molto occidentale. Poi, spostandosi un po' fuori dal centro, chiaramente ritorna ad essere Cina. Però finché si è nel centro della città, ecco, sembra molto, molto occidentale l'architettura. Sì, per quello anche. È quella zona che si chiama Bund, non so come si pronunci. Sì, il Bund. Il Bund è la zona, il fiume praticamente, mm-hmm. Il ponte sul fiume che divide la città in due parti. Ho capito. E insomma, invece c'è stato l'Expo, no? L'anno scorso. 2010, sì. E quindi anche quello penso abbia dato un impulso consistente alla città, anche dal punto di vista architettonico, credo, no? Ma in realtà la zona Expo è abbastanza fuori dalla città e comunque al momento è rimasta inutilizzata dopo Expo. Stanno cercando di riqualificare quella zona in qualche modo, riaprendo i padiglioni come dei musei o qualcosa del genere, suppongo, però al momento è ancora inutilizzata. Quindi questo è il classico... era una zona vastissima, comunque ci si muoveva con gli autobus all'interno, tra un padiglione e l'altro, perché era veramente enorme. Ecco, in una città così enorme non si finisce, diciamo, di girarla totalmente, quindi sicuramente ti sei ritagliata una zona nella quale costruisci le tue attività o comunque vivi nell'arco della giornata. Hai qualche, ecco, luogo preferito o un luogo che consiglieresti a chi visita Shanghai? Ma allora, posto che a Shanghai c'è molto poco di storico, ci sono sicuramente delle belle zone da visitare, però se uno è alla ricerca di un viaggio nella storia è preferibile andare a Pechino, dove comunque c'è la città proibita, il palazzo d'estate, via dicendo. Qui a Shanghai è una città un po' più da vivere, ci sono delle zone dove passeggiare a piedi, dei parchi. Comunque il centro è tutto bello da vedere, cioè, la zona commerciale dei negozi piuttosto che le zone dei ristoranti e dei bar è molto, molto così da vivere, ci sono pochi posti turistici che richiamano la storia cinese, per dire. Al contrario invece ci sono posti in cui tu o magari chi arriva, gli stranieri che sono lì proprio non frequentano mai, cioè gli sono preclusi per vari motivi? Posti che gli stranieri non frequentano mai, ma no, solo la periferia, ecco. Gli stranieri tendono a rimanere nel centro, chiaramente, perché è molto più moderno, certo, più bello servizi. Comunque da frequentare la periferia invece è un po' degradata, ecco. Certo, come un po' dappertutto. Ah, volevamo chiederti a questo punto com'è che ti diverte a Shanghai? Come si diverte a Shanghai? Beh, ci sono tantissimi ristoranti, tantissimi bar, tantissime discoteche. Comunque, per un italiano, dove in Italia magari non ci sono tanti ristoranti di cucine etniche, venire qua si può provare un po' di tutto. Ci sono ristoranti di ogni nazionalità e in abbondanza, direi. Comunque, il costo della vita per alcuni aspetti è un po' più basso, non per tutto. Quindi andare al ristorante sicuramente costa un po' di meno di quanto costerebbe in Italia o in Europa. Mm-hmm. Ho capito. Siamo prossimi alla fine. Sì, ormai ci siamo. Ci siamo. Alla chiusura della puntata lanciamo i contatti. Ricordiamo che siamo alla frequenza FM 102.200. Il sito della radio è www.radiosandona.it. Il nostro blog www.nowboardingradio.wordpress.com. La pagina Facebook Nowboarding Radio. E la nostra mail nowboardingradio@gmail.com. Ecco, Luciana, puoi usare il tuo IP segreto per vedere per scaricarti il podcast e quant'altro. Ok, vi aggiungerò i miei contatti. Infatti, ma siamo sicuri, non è che poi qualcuno ci spia, cioè ci fidiamo, possiamo accettarti tra l'amicizia. No, non vi preoccupate, non sono una spia del governo cinese. Vabbè, dai, ci fidiamo per stavolta. Luciana, ti ringraziamo. Grazie davvero. Grazie a voi. L'ultima. Spero di aver detto. Sì, l'ultima canzone l'hai scelta tu, è Homesick dei Kings of Convenience, che dice tutto, insomma. o no, cioè, un po' di voglia di tornare, mi sa che ce l'hai, no? Certo, normale. Bene, grazie ancora. Noi salutiamo anche gli ascoltatori, David. Io ti ringrazio per aver sostituito egregiamente. È stato un piacere, Riccardo. Anche se sono intervenuto poco, me ne sono reso conto. Sono nuovo. Ma noi diamo spazio ai giovani. Benissimo. Quindi, e allora diamo appuntamento mercoledì. Al prossimo mercoledì, meta alle ore 21. Da svelare. Come sempre. Ciao Luciana, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. Andiamo ciao. Con i Kings of Convenience, Homesick. Happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the bridges, I believe. As soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on a tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. We're home.